Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo rubato qualche istante a Chiara Giacobbe, ma la presentiamo quasi subito, giusto il tempo per dire due parole, cioè questa è Blue Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, Agostino Spalaore, Maurizio Calzavara e poi ancora i nostri numeri telefonici in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms il 346 23 20 033, le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazioni frequenze, il nostro sito www.bluradiovento.it, lì come dico sempre ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24, oltre a leggere le nostre notizie, insomma le nostre recensioni che facciamo sugli artisti e anche quello che accade nella nostra regione, non solo, cioè il Veneto. E poi ancora, che dire, che dire, che adesso siamo lo spazio a Ready to Go, cioè questo disco di Chiara Giacobbe che ci è venuta a presentarlo qui, e intanto diamo il benvenuto. Ciao Chiara. Ciao. Ciao, benvenuta e benvenuto. Grazie. Ti sei portata un chitarrista stasera? Sono portata un bravo chitarrista che è Alberto Graziani, eccolo qua. Buonasera a tutti, grazie. Se mi parlate un pochino più vicino al microfono, grazie. Eccomi. Ecco. Ok, bene. Avete le voci basse. Sì. Maurizio, tutto tuo. Benissimo, Chiara, io ho letto la recensione, la presentazione che ha fatto Paolo Vites e poi ha fatto una cosa meravigliosa all'inizio. Paolo Vites ha scritto, che collegamento può avere una ragazza che abita, che vive ad Alessandria col Messico, mai Messico? Che collegamento? Ha tanti collegamenti secondo me. Cosa dici, Chiara? Ma guarda, questo EP acustico si intitola Ready to Go. Il tema, il filo conduttore è il viaggio. È il viaggio, esattamente. È il viaggio, che sia un po' declinato in tante versioni, nel senso che sia il viaggio vero e proprio attraverso il roadmap, cioè appunto la carta stradale, no? la via da seguire, o attraverso una canzone come My Mexico, che in realtà non parla del Messico, no, se non un po' per l'andamento, ma è un Messico della mente, una zona franca in qualche modo di fuga. Sì, di confine praticamente. Di confine, esattamente. Sì. E poi, sempre leggendo, una cosa molto bella, l'ho detto anche a microfono spento, cari ascoltatori, adesso lo dico a microfono aperto, tu hai suonato in mezza Europa con un sacco di gente e tra l'altro hai suonato con Wilton Massey. Io e quell'altro signore che si chiama Alberto Prisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico, amiamo follemente questo personaggio che da molto tempo che non si fa sentire, o si fa sentire poco. Come sei riuscita a suonare con Wilton Massey, uno dei musicisti più interessanti americani, anche se un po' di retroterra, non amato, non così conosciuto come dovrebbe essere? È vero, anche secondo me non è conosciuto come dovrebbe essere. Guarda, io devo ringraziare Edward Abbiati per aver suonato con Wilton Massey, che è il cantante e fondatore della band Lowlands, dove io ho suonato per tanto tempo, e lui aveva questo contatto con questo musicista fantastico, e Will era venuto in Italia per fare alcune date, e chiamato da Edward, no? Seguito da Edward, e Will ha avuto piacere di avere sul palco con lui un violino e un altro chitarrista, come ha suonato Roberto Diana, che certo, è chitarrista dei Lowlands, e in quell'occasione ha avuto modo di conoscere questa persona incredibile che è Will, di una dolcezza, intelligenza e di gran cuore, un musicista eccezionale che ha scritto delle canzoni bellissime, poco fantastiche, dovrebbero conoscerlo molte più persone, certo, è vero. Per lo spirito di Chiara, cari ascoltatori, quello di suonare assieme, vero, vero Chiara? Sì. Quello è più importante, suonare assieme. Certo, certo, perché è bello suonare. È bello suonare, è bello suonare con altre persone, è bello fare band, anche quando si è solo in due, come stasera, me, con Alberto, stasera. Sì. Però è una condivisione, io la penso così, poi questa è una mia opinione. Certo, credo tu che hai suonato, che hai vissuto per molti anni con i Lowlands, che era un gruppo aperto in tutti i sensi, molto vero, aperto musicalmente, certo, parlando. Quindi, sì, decisamente. Esattamente. Quindi hai deciso poi in un certo periodo di tempo di lasciare i Lowlands per attivare una tua carriera, un tuo percorso. Sì, per fare, sostanzialmente ho messo giù in poco tempo queste idee che avevo, queste idee acustiche, ho scritto un po' di cose, le ho un po' scritte al pianoforte, strimpellandole un po' alla chitarra, strimpellandole. Qui suoni anche il pianoforte, no. Non suoni il io pianoforte. Io sono una strimpellatrice di altri strumenti. Perché tu sei diplomata al conservatorio, sì, per il violino. Violino, quindi, sì. Così ho messo insieme un po' questi pezzi, ho deciso di registrarli, di fare questa cosa che era tempo che volevo fare, poi tra tanti impegni non c'era mai l'occasione. E allora poi sono andata da Andrea Lepori all'ML Studio, sì. Dove abbiamo, Andrea è un amico e abbiamo lavorato benissimo, come sempre nello spirito dell'ML Studio. Abbiamo, in 5 giorni abbiamo registrato le chitarre, il contrabbasso su un paio di brani, le chitarre del disco le ha registrate Gege Picollo, mm. E al contrabbasso c'è Mariano Nocito. Poi dal vivo non siamo andati a suonare insieme, insomma anche loro sono molto impegnati, e poi ho avuto la fortuna, la grande fortuna, lo so che è presente, però devo dirlo, è la verità, certo. Di chi mi conosce sa che dico la verità, non sono capace a mentire, poi si vede, quindi, certo. Di incontrare Alberto che ha un altro background, però da dove partire, il background di Alberto, da dove parti te, musicalmente? Ma i miei esordi sono stati nel mondo del folk, che però ho abbandonato presto, diciamo, quasi subito. Mi sono dedicato al linguaggio della musica jazz e di improvvisazione. Io ho visto che mentre cercavi di metterti in carreggiata, penso, musicalmente sì. Parlando, giocavi tra modo di dire con qualche arpeggio jazzato, assolutamente sì, jazzato. Sì, quello lì è la mia formazione, questa. Però io amo la musica acustica profondamente, amo la chitarra classica e la chitarra folk, e per me questa è veramente un'occasione per riscoprire questo strumento, ecco. E anche, se vogliamo, per ritornare un po' alle mie origini. Però a prescindere, e qui mi trovo costretto a ricambiare i complimenti immeritati che ho ricevuto, diciamo che il punto di partenza è veramente l'ammirazione per la capacità di scrittura di Chiara Giacobbe. Ecco, questo è benissimo. Quindi, Chiara, hai deciso di fare questo progetto, questo sì. EP. E quindi iniziamo a sentire questo EP, cosa mm-hmm. dici? Cosa abbiamo scelto? Che traccia abbiamo scelto? Abbiamo scelto come prima traccia Roadmap. Ne abbiamo parlato prima di sfuggita. Adesso ne parliamo un po' più. Sì. No, ne parliamo dopo. Prima la ascoltiamo. Sentiamo. Ok, perfetto. Thank you. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Chiara, io ti porto già i saluti, o meglio forse lo saluterai tu perché ti conosce, da parte di Mauro Tara. Ah, grazie, ricambiamo. Ti sta ascoltando. Ricambiamo, affettuosamente. Ciao Mauro, buon proseguo all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto. Roadmap. Allora, più che un percorso stradale, è un percorso musicale di vita, di tuoi convincimenti, di tuoi amori. Qualcuno ha scritto, sempre Paolo Vites, tra Paganini e Ray Cooder, al di là di questi paragoni belli, per carità. Studio classico, sì, questo è fondamentale. Però Ray Cooder, quindi l'allargamento totale della musicalità americana, che Ray Cooder è un musicista di mondo, non è un musicista solo americano, secondo me. Ma certo, guarda, Roadmap nella fattispecie è venuta fuori in un modo... Come è venuta? Siccome l'hai creato, l'idea come adesso te lo racconto così ridi, guarda, ne parlavo oggi con Alberto, di questa cosa. Io che amo molto la chitarra, ho un fratello chitarrista, quindi uno strumento che amo molto profondamente, lo trovo così bello perché è capace di creare un'armonia di per sé, no? Il violino alla fine è uno strumento solista, certo. La chitarra può essere tante cose, questa particolarità della chitarra mi ha sempre affascinato, lo trovo uno strumento molto romantico, molto, molto presente. E è andata così, un amico caro mi dice: ma sai che esistono le accordature aperte? E dico: ah sì, in effetti. Allora mi dice: ma sì, prova a cordarle in sol, vedrai come ti diverti. Io che sono una terribile strimpellatrice di chitarra sono andata a casa e ho strimpellato tanto da far venire fuori questo giro che mi è piaciuto. Ci ho canticchiato sopra un po' e non lo so, mettere il titolo a una canzone o una canzone a un titolo non c'è sempre lo stesso percorso. Quando ho riascoltato un po', ho registrato tipo con il telefonino così, sì, il giro della chitarra, mi sono venute in mente delle cose che avevo vissuto, no? Molto banalmente, come capita a tutti, si ascolta una melodia o un'armonia e ci viene in mente un ricordo, è naturale, o un profumo e ci viene in mente un ricordo. Con la musica per me funziona ancora di più e mi sono venute in mente tante strade che ho fatto suonando. Appunto, volevo dire, tanti palcoscenici. Assolutamente. Sì, tante, ma anche tante bellissime, cioè al di là dei palcoscenici che sono stati, sì, palcoscenici, tutti belli, tante occasioni. Tanti lunghi viaggi, sì, in auto con gli altri della band. Quindi sembra proprio americana in quel senso. E sono proprio dei bei momenti in cui si dice di tutto, si fa di tutto, si sta bene, insomma, è bello così. E è venuta fuori questa roadmap in questa maniera. L'avete registrata, è prodotta da te, fa tutto te praticamente. Allora, questo disco è stato, sì, le idee musicali sono tutte le mie. Tutte le tue. Poi quando, a parte Not Your Fault, che invece è una canzone, certo, di White Rope. Dopo parliamo, sì, come hai pescato Team White Rope. Bello, interessante, perché pescare Team White Rope non è cosa di tutti i giorni, secondo me. Noi che siamo i vecchi rocchettari, ci alziamo subito in piedi. Vecchi no, dai. Vecchi nel senso, stagionati da anni e anni di ascolti. Beh, Alberto, Agostino, Gil, quindi tutto il clan qui della, certo, radio. Com'era la domanda? Parlavi di come è nato il progetto. Cioè, la produzione. Cioè. Ma la produzione è avvenuta in maniera molto, molto semplice, nel senso, io ho fatto sentire questi pezzi a Gege, chitarrista che ha registrato il disco, dicendogli: guarda, tu mi conosci, lo sai, io suono il violino, canto, però cioè, ti faccio sentire amichevolmente quello che so fare sulla chitarra e aiutami, no? E lui si è reso disponibile, ha capito perfettamente quello che io volevo, non ha cambiato nulla, ma l'ha reso tutto, non lo so, un po' a modo suo, no? Senza stravolgere, ha capito perfettamente e mi ha dato una bella mano nell'arrangiamento per chitarra di questi brani e non solo. E quindi è nato il pezzo. E quindi è nato il pezzo, come sono nati gli altri pezzi. Certo. Allora, Agostino, cosa dici? Adesso facciamo suonare. Io direi che sia il momento. Siamo pronti. Okay, tu allora, sei pronta? Sì. Che bello, è pronto, pronta, quindi. Alberto, è pronto? Quasi, tanto mentre Alberto si prepara io vi dico cosa vi suoniamo. Allora, adesso noi vi suoniamo un brano che non è presente su questo EP acustico, è un brano che io ho scritto qualche tempo fa, il testo è di una mia carissima amica che vive in Inghilterra, che si chiama Silvia Delle Piane, è una bravissima poetessa e siamo molto amiche, quindi un giorno le ho detto: senti, ma fammi qualche testo, tu sei una poetessa bravissima, io vorrei un tuo testo, e da lì è partita questa collaborazione. Il brano si chiama No Place to Hide, e, ed è la prima volta che viene eseguito al di fuori della nostra sala prove. Dobbiamo ricordare, è una cosa nuova. Dobbiamo ricordare, Agostino, che questa è la prima esibizione in assoluta, proprio, inizia la tournée, sì, con stasera. Siamo onorati per questo, Agostino. Beh, insomma, ci fa molto piacere questo. Poi magari per il disco nuovo l'avremo ancora qui. Esatto. Ma certo. Ok, allora No Place to Hide. Honestly, that all that fire burns so quick. He left a space, he left a hole. I could fall down inside, but it's all so, so empty. There's nowhere left to hide. You made me feel so good. I made you feel just guilty. I see your eyes, can't look at me, 'cause I remind you that you're weak. How could it be? Honestly, that all this love has got no home. Space, he left a hole. I could fall down inside, but it's all so, so empty. There's nowhere left to hide. I made you feel so good. You made me feel so strong. I see you're blind, can't look at you, 'cause you remind me that I'm gone. He left the space, he left the hole. Have fallen down that slide. He left the space, he left the hole. But I've come out the other side. But it's so, so, so empty. There's nowhere left to hide. The space, he left the hole, and now's my turn to see you crawl. But it's so, so, so empty. There's nowhere left to hide. There's nowhere left to hide. Posso dire una cosa su questo pezzo, che è la prima volta che lo sento? Alberto l'ha suonato in modo molto percussivo, a me piaceva molto, cioè si fermava, riprendeva, si fermava e riprendeva, e tu chiaramente era un pezzo folk, tra virgolette, molto contrastato, folk tra virgolette, un folk a 360 gradi. La percussione, spesso la chitarra suonata in modo percussivo è molto accattivante, secondo me. Io lo sento. Ma guarda, io Alberto lo adoro, quindi non posso più dire niente, per lui diventa rosso, lo so che in radio non si vede, ma questo brano... Però si può fotografare. Si abbiamo può. Le foto poi. Allora, sì, sì, fotografiamo. Allora, io se posso dire, questo pezzo lo suono così perché è troppo veloce per me, quindi... L'hai rallentato. No, non sono capace di farlo diversamente. Ho capito. Ma non è vero, ma non è, dice delle cose. Cioè, c'era già Johnny Cash che diceva queste cose, non sì. Le dire tu. No, beh, questo pezzo, se posso spendere due ma parole. Ma certamente. È un brano è fresco fresco, è proprio arrivato questo testo dall'Inghilterra, da questa mia amica, a me è piaciuto molto anche Alberto, ne abbiamo un po' parlato, io ho tirato giù un pochino la linea musicale, poi Alberto l'ha resa così, perché ripeto, io ho delle idee e poi fortunatamente, cioè perché sono proprio fortunata, sono stata fortunata con il disco, ho avuto dei musicisti molto bravi che hanno capito tutto e sono stata fortunatissima quando ho incontrato Alberto e ancor più sono contenta perché questo brano, sono contenta di suonare questo brano e di averlo suonato proprio come primo brano live qui, perché questo è il primo frutto della nostra collaborazione vera e proprio. Sugli altri brani Alberto è stato eccezionale, ha messo del suo, però su brani che già erano stati scritti e prodotti, e questo invece è proprio il primo passo, e a me piace molto, mi piace suonarla, mi diverto. E sì, tu vieni dal classico, però in questo pezzo non sembrava, non si sente che vieni dal classico. Non dico che è una predominanza della musica rock, però chiaramente il classico è molto lontano, a mio parere, musicalmente parlando, dal punto di vista del violino. Decisamente, ma io guarda, ho studiato musica classica, ho studiato al conservatorio, sono stata fortunata anche lì perché ho avuto un'insegnante che è Elisabetta Garetti, sì. È un nome, è una persona molto importante, certo. la spalla dell'orchestra del Carlo Felice di Genova, è una concertista conosciuta di fama mondiale, ma è anche una persona con una mentalità incredibilmente aperta, lei suona Piazzolla, lei suona... Ecco, quello è importante. Sì, suona Bach con un quartetto jazz, fa delle cose molto belle, e quindi mi ha permesso di avere sempre la mente aperta, ma in realtà io suonavo musica rock, musica folk già molto prima di iniziare gli studi classici. C'è da dire che forse in Italia lo studio classico per certi strumenti come il violino, la viola, il violoncello è necessario. Comprime, secondo me. A volte sì, a volte no. Tecnicamente, ma questa è una mia opinione, non mi voglio mettere in cattedra. Tecnicamente, secondo me, è ancora la scuola in cui si impara meglio a sfruttare lo strumento, a girare e voltare lo strumento, come si dice dalle nostre parti. E poi è chiaro che ognuno ci mette un po' del suo, dovrebbe, assolutamente. Benissimo. Io volevo chiederti una cosa, Chiara, se mi consenti, l'aspetto umano che piace tanto a me scoprire. Come nascono invece le tue canzoni? Cioè, c'hai qualcosa che ti dà qualcosa da dove prendi spunto, insomma? Ma guarda, lo spunto... Oppure ti siedi lì e quello che ti viene, cioè non credo che sia così. Ma no, io canticchio tutto il giorno, cioè suonicchio e canticchio nella mia testa tutto il giorno. Ogni tanto mi viene in mente qualcosa, ma nella fattispecie questi 5 pezzi, perché ripeto, uno dei brani è una cover. Che cover. Dobbiamo dire di chi... diciamo al momento giusto. Va bene. Diciamo al momento giusto. Sono venuti fuori... quasi tutti in contemporanea, li avevo molto nella testa, alcuni sono partiti dalla melodia, come My Mexico, che dopo ascolteremo, alcuni sono partiti dalle armonie, come Roadmap, certo. Come anche un altro brano che poi vi suoneremo, che è Missing You, ma io sono molto sensibile, nel senso ogni cosa mi fa pensare, per cui credo che sia facile, se vogliamo tenere le orecchie aperte e i pori aperti, lasciarsi influenzare, no? Da quello che vediamo, da quello che viviamo. Funziona così per me. Ma sei prolifica tu o, o sono cose rare che ti capitano? Ma io scrivo tanto, arrangio tanto. Mi è sempre piaciuto arrangiare, era il mio primo lavoro, tra virgolette, nel senso che ho suonato in tante band, ho suonato sia... essendo all'interno della band, quindi lavorando anche agli arrangiamenti, ma anche chiamata a suonare, no? E la parte dell'arrangiamento mi piace molto. Per tanti anni ho quasi solo arrangiato e dicevo sempre: guarda, io non sono capace a scrivere, dammi 3 note e io faccio una sinfonia, però dal niente non lo so. E poi un giorno mi è un po' scattata questa cosa e adesso non mi fermo più. Vedremo. Certo. Beh, noi non ti facciamo fermare, anzi ti facciamo suonare ancora. Cosa dici? Sì, sì. Va bene. Sì, sì. Sconvolgiamo le scalette. Beh, qui le scalette non vengono mai prestabilite, poi devono essere sconvolte, chiaramente. Va bene. Allora, adesso, nella fattispecie, suoneremmo Not Your Fault. Giusto? No, Alberto? Sì. Suoniamo Not Your Fault, che è questa cover. Questa cover. Ne parliamo adesso dei White Robe, ne parliamo dopo? Ma parliamone dopo. Parliamone dopo. Siete pronti? Siete già sì, pronti? Sì, okay. Abbastanza. Ok. Sei partita dolcemente, quasi sussurrando. Beh, insomma, mettiti le cuffie intanto, Chiara Giacobbe, così poi ci sentiamo meglio, perché insomma lei si sposta appunto per suonare, perché così sì, ci sei. Ci sono, ci sì, sei. Dicevo, sei partita molto piano per poi, tra virgolette, insomma, muovere un po' le acque, insomma, scuotere un po', insomma. Sì, questa canzone è un po' sofferta. È un po' sofferto, sì, forse. Beh, anche l'originale è molto, ha molto pathos. Comunque, questa canzone io non l'ho mai suonata dal vivo nel tour estivo. Abbiamo scelto di non suonarla dal vivo. Poi, quando io ho cominciato a suonare con Alberto, Alberto è molto piaciuta. E se suona così adesso è perché io e Alberto ci abbiamo lavorato insieme. Magari se tu ci vuoi dire qualcosa... Qualcosina. Beh, sì, diciamo che è un brano che mi piace molto. Ma la scelta inusuale, posso dirti una cosa, Alberto? noi abbiamo ospitato tanta gente qua, è la prima volta in assoluto che sentiamo una cover, e noi ci alziamo in piedi, di Tame White Rope, gruppo assolutamente innovativo, ma molto difficile da coverizzare, secondo me. Tu l'hai trasformato, dicono il pezzo non è assolutamente così, qualcuno ha scritto, ha degli echi di musica celtica, di musica assolutamente celtica, sì, è di echi di musica degli elfi, dal Signore degli Anelli, qualcuno ha scritto. Ma i Tim White Rob non sono così, tu l'hai trasformata assolutamente, è una cosa molto positiva, è difficile, ripeto, è molto difficile prendere un pezzo di Tim White Rob e trasformarlo, secondo me, è problematico. Ma io, a me piacciono molto i Tim White Rob, sono una band che io amo particolarmente, e di loro... Molto dark secondo me, erano molto scuri, anche se non dark nel senso, proprio scuri. Sì, suono duro, scuro, potente. Loro avevano una cosa... fantastica, che è una vena melodica, esatto, meravigliosa che c'era sempre in giro, e questa canzone che a me piace molto aveva questa melodicità, no? Soprattutto nel ritornello, sì, esatto, che ogni volta che io l'ascoltavo ci sentivo un'orchestra veramente, e più di altre canzoni che poi mi piacciono tutte, però questa qui ho cominciato a pensarlo, no? Ci suonavo un po' sopra con la chitarra, ci canticchiavo, e ogni volta che provavo a coverizzarla la sentivo sempre più minimalista, no? Toglievo sempre qualcosa, però secondo me quando una canzone è bella bisogna stare attenti a fare una cover, ovviamente io l'ho fatta con il massimo dell'amore e del rispetto, e poi Alberto è piaciuta molto. Beh, perché Alberto è piaciuta molto ad Alberto? Adesso me la devi spiegare. Innanzitutto ha delle atmosfere un po' modali che in qualche modo hanno a che fare anche un po' col mio retroterra, per cui diciamo soprattutto nella prima parte, sì, tu hai io mi ci ritrovo così. Avvicinandoti al jazz all'inizio, sì, qui sì, poi sì, chiaramente sì, le cose sono, sì, cambiate, sì, però sì, lentamente hai dato un input jazzistico, certo. Poi le cose, ma io ritengo che questa formazione un po' atipica e soprattutto l'utilizzo del violino per coverizzare brani come questi sia un'idea assolutamente geniale, nel senso che sia veramente la possibilità di cambiare faccia, cambiare volto a un brano, a un'idea musicale con grande facilità. È vero, questo pezzo a mio avviso ha acquistato così dei colori che nella sua versione originale non aveva, diciamo. In pochi minuti, ecco, diciamo un brano abbastanza breve, ma veramente si apre ad atmosfere diverse, e come si diceva prima, così ha un inizio quasi jazzistico, dopodiché c'è una melodia molto dolce rispetto all'originale, e poi nel bridge, che in realtà è una parte originale di Chiara, si ritorna a queste atmosfere un po' scure, e secondo me è proprio in questa parte originale dove in qualche modo si rende più forse giustizia alla versione originale, ecco, di Tim White Rope. Esatto, e secondo me dal vivo lo si può allargare a dismisura questo pezzo, proprio allargandolo in tutti i sensi, proprio sempre più, dando più spessore, più potenza. Stavamo parlando, sì, di questa più potenza, io l'ho sentito così, anche sicuramente il clan qui vicino dei nostri della radio, cioè noi di Blu Radio Veneto, qui presenti, l'abbiamo sentita così, cioè, proprio si può allargare un live, assolutamente un live fatto su questo qua, allargando gli altri. Lo faremo, ecco, bene, un'idea. Certo. Volete riposarvi un po', facciamo ascoltare qualcosa dal disco adesso? Sì, volentieri. Hai scelto? Sì, ho scelto la già citata My Mexico. My Mexico, sì, che inizia il disco, che inizia il disco, sì, e poi ne parliamo. Va bene, ok. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 21:41, oggi è venerdì 4 gennaio 2013, ancora con Agostino Splore, con Maurizio Calzavala, qui nella fascia oraria chiamata Blue Time Live, ma soprattutto con lei, con questa violinista splendida, oltretutto è anche molto bella, ti posso fare un complimento. Grazie. Si chiama Chiara Giacobbe, oltre alla tua bravura, insomma c'è anche la tua bellezza. E questo è sta presentando il suo disco che si chiama Ready to Go. Chiara, perché iniziamo con My Mexico? C'è un motivo oppure dobbiamo sottolineare questo? My Mexico non è un pezzo messicano, assolutamente no. È un pezzo di Chiara, è un pezzo, è un valzer, un movimentato, accattivante, ma no, è un pezzo suo, non c'entra niente con il Messico, abbiamo detto anche prima, però musicalmente il Messico è lontano, come diceva Iannacci, Messico è nuvole, chiaramente. È vero, ma abbiamo iniziato il disco con My Mexico perché era un po' come fare un passo oltre il confine. Esattamente. No? Andando dall'altra parte poi partiva tutto un viaggio, che poi questo viaggio in realtà non è tutto oltre il confine, ma è uno zigzag. È uno zigzag. Tra razionalità e sentimento, tra stare nelle regole e non starci, come è un po' nella mia testa e com'è nella testa di tanti musicisti, credo, di tante persone che si sentono vicine alla musica. Non c'è mai una sola strada, non c'è mai un solo modo di vivere o di prendere le cose. Io credo che sia un disco, bello o brutto che venga considerato, molto onesto. È stato registrato in pochi giorni, non ci sono correzioni, non ci sono sovraincisioni, solo nel brano dei Teen White Rope, che abbiamo voluto rendere un po' più evanescente in alcuni punti, allora c'è l'utilizzo di un riverbero. Ne parlavamo oggi con Alberto dell'utilizzo anche dell'effettistica. L'hai ridotta vicino l'effettistica. Su tutti gli altri brani non c'è nulla, certo, se non giusto il... quell'utilizzo del poco effetto che va messo su un microfono di ripresa di un violino in una sala insonorizzata, perché abbiamo comunque registrato in uno studio insonorizzato, non in una sala da concerto, no? E invece sul brano dei Teen White Rope, sì, lì a proposito, mi hai raccontato una cosa sul brano dei Teen White Rope, se lo puoi dire direttamente al microfono, perché gli amanti di un certo genere, noi rocchettari, dobbiamo saperlo. Ma guarda, sì, quando io ho deciso di fare con molto rispetto e reverenza la cover di questo brano che io amo molto, ovviamente bisognava chiedere dei permessi, perché certo, non è che si può registrare un brano così su un disco e va tutto bene, ci sono un sacco di procedure burocratiche, in particolare chi detiene le edizioni del brano deve essere informato e dare un permesso, che no? Non sono loro, che non sono loro. Appunto. Che non sono i Teen White Rope. In ogni caso la gente che lavora per me in Inghilterra si è gentilmente speso per contattare questa band con cui lui aveva dei contatti, e a parte capire che loro non avevano le edizioni, quindi insomma è stato un percorso un po' più lungo, accidentato, però poi siamo arrivati alla fine, e loro hanno detto: ah, ma ci piace tanto questo brano, speriamo che lei venga a suonare in California. Bene. Speriamo. Ci andiamo volentieri in California, no? Ti accompagno anch'io, perché mi piace. Dai, sì. Andiamo. Mi piace moltissimo la California, insomma. Anche per altri generi musicali, ovviamente. Ma certo. Non solamente per quello che stavamo parlando. Certo. Io volevo chiederti una cosa, scusami Maurizio. Beh, vai. È una cosa a livello personale, Chiara, sì. Volevo solo sapere il tuo parere. Lo so che non si chiede mai cosa ne pensi di un altro artista, però mi permetto di fartela questa domanda. A me piace moltissimo una violinista che suona in un gruppo irlandese con le Celtic Woman, e si chiama, c'ha un nome impresentabile, infatti mi sono aperto la pagina perché poi magari mi dimenticavo. Si chiama Myred Nesbitt. La conosci? Guarda, io conosco questa band non bene, non bene. Quindi lei è pazzesca vederla suonare da sì, violino. Cioè, loro hanno uno stile meraviglioso, cioè questo utilizzo dell'arco che io ammiro molto, molto veloce, molto esatto, completamente diverso sì, dal, esatto, dall'utilizzo che abbiamo noi italiani, no? Certo. Il loro strumento si chiama anche fiddle. È lo stesso, è un violino ovviamente, sì, fatto sì, come un violino, però la concezione è proprio differente, usano posizioni magari più basse, però hanno una velocità della mano destra dell'arco che è impressionante. Loro imparano così da piccoli, cioè, proprio, okay, partono così, sono fantastici. Yeah. ci sono tutta una serie di effetti che loro riescono a creare senza avere effetti, no? Solo con la velocità, con l'utilizzo delle corde doppie. È solo questione di esperienza, insomma, di bravura, insomma, e di talento. E di cuore. E di cuore. Sì, cuore. Decisamente. Bene. Allora mi piace una violinista che è brava, allora. Certo. Ok. Certo. Benissimo, dunque cosa facciamo? Potremmo fare sentire, sì, facciamo un altro pezzo live, dai, facciamo, dai. Suoniamo che cosa, Chiara? Cosa suoniamo, Alberto? Andiamo nell'ordine della suoniamo scala. Missing You, ok, allora io devo spendere un attimo per accordare il violino, perché è il pezzo che abbiamo deciso di mandare in onda noi per promuovere il disco. Ecco, allora vi è piaciuto? Certamente, decisamente. In questo brano io ho la corda più bassa del violino che viene abbassata ancora di un tono. Ecco, spiega un momento a chi non conosce perché la abbassi la corda. La abbasso perché ho la possibilità di suonare alcune note che sono un tono più basse rispetto alla normale accordatura del violino. Mi piaceva e allora faccio questa cosa. Benissimo. Quindi mi dovete perdonare. No, la fai live. Faccio live, accordo un attimo come dal vivo. Ok. Esattamente. Il bello della diretta, come si suol dire, vero Maurizio? Decisamente, il bello della diretta è sempre così, accordare gli strumenti live, proprio la gente deve sentire che siamo in un concerto, siamo davanti, noi siamo qua, però come la gente fosse qua davanti. Certo, che mi sembra giusto. Intanto io ne approfitto per ricordare i numeri telefonici se qualcuno volesse contattarci, a basso proprio, perché qui se no, altrimenti non ci sentiamo. Allora, il numero telefonico in studio, se volete chiamarci, parlare direttamente, è lo 049-875-6423. Mentre se ci volete mandare gli sms anche per fare qualche domanda a Chiara, qualche curiosità, perché no, qualche cosa da chiedere, insomma, a questa artista che ci è venuta a trovare questa sera, il nostro numero degli sms è il 346 23 20 033. Se invece non volete spendere neanche un centesimo di sms, potete tranquillamente scrivere sulla pagina o mia, cioè di Agostino Spolaore, o quella della radio Bruno Devento Rock Wave, o quella di Alberto Prisco, che è qui con noi anche lui questa sera. Insomma, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, noi siamo ben felici di leggere le vostre domande e poi ovviamente rivolgerle alla qui presente violinista Chiara Giacobbe. Tu sei pronta, Chiara? Quando sei pronta me lo dici? Siete pronti? Sì. Perfetto. Allora, prepariamo qui e andiamo. Thank you. è il caso di dire, Maurizio, qui c'è il cuore. Sì, c'è il cuore, ma è un pezzo molto complesso, secondo me. Stasera l'hai fatto, cioè, dice a me molto complesso perché ha dei momenti classici, assolutamente classici, ha dei momenti assolutamente non classici, proprio di virtuosismo, dei momenti brumosi, qualcuno ha scritto, cioè malinconia. Bello, molto interessante. Un concerto di tanti colori, vero Adriano? Cosa dici? Ecco, Alberto. Alberto, scusa. Di tanti colori, scusa. No, ecco, vorrei spendere due parole sulla scrittura di Chiara. Che non è facile da seguire o è facile da seguire? No, per niente. Non è per niente, va bene. Non lo è per niente. No, secondo me lei ha una peculiarità veramente, che è quella di riuscire ad attingere a due fonti che sono un po' antitetiche, cioè l'approccio di scrivere canzoni con la chitarra un po' artigianale, un po' autodidatta, non so come dire, no? Quindi questa freschezza. E poi invece una profonda consapevolezza e conoscenza del suo strumento che le deriva dagli studi classici. Ecco, queste due cose in qualche modo si compenetrano e non lo so, ecco, così esagero un po' per paradosso, però forse siamo abituati a pensare a chi scrive canzoni con la chitarraccia da spiaggia, no? Un po' come un mestierante della musica, e invece a considerare un musicista classico, come dire, molto pettinato, molto dentro al suo ruolo, come dire, due mondi che non hanno possibilità di incontrarsi, invece si sono incontrati. Ma Chiara non è per niente pettinata dal punto di vista, secondo me, assolutamente. No, un po' spettinata stasera. Dal punto di vista proprio musicale non è per niente pettinata, anche nel suo disco. No, assolutamente, c'è tanta sporcizia che fa bene alla musica. C'è tanto feeling, c'è tanto pathos, cioè ci sono, chiaramente il discorso classico è fondamentale per l'impostazione, poi l'impostazione viene allontanata. Questo pezzo, l'impostazione era sì classica, ma un po' il modo di dire classica. Il virtuosismo c'era, ma basta, secondo me. Il classicismo è andato, anche se è importante, fondamentale, però è leggermente lontano, a mio parere. Guarda, per me, a me piace molto ascoltarvi parlare di queste cose. Io cerco di capire. Perché io ti dirò sempre la stessa cosa, no? Quando io cerco di scrivere un pezzo, mi viene in mente un'idea, in realtà io non so da dove venga. Poi è chiaro che noi siamo tutti una somma di tutto quello che abbiamo fatto. C'è una banalità, ma è anche una realtà. Non solo quello che abbiamo fatto noi in prima persona, ma anche quello che abbiamo ascoltato, vissuto, amato ed odiato, perché poi dentro ci sono tante cose. Quando io ho scritto Missing You, ho pensato a proprio un in tre note mi è venuto in mente un classicissimo valzer del Tennessee, non lo so, una cosa del genere, molto molto country, ma non c'era, no? Ma non c'era il blues, anche se poteva esserci il blues. Non lo so. Vabbè. Okay. Era una cosa molto da dame, cavalieri e cavalli, nella maniera più pura possibile, no? Poi è chiaro che dentro ci sono dei momenti più classicheggianti, è vero, il finale dove si ferma un attimo, c'è una parte quasi di minuetto, no? Sì, poi alla fine è vero, ci sono dentro sempre tante cose, ma è proprio il mio modo di essere. Ma in questo pezzo ci sono tante cose, secondo me, particolarmente in questo pezzo, a mio parere. È una cosa, tu abbiamo citato, sì, ma tu il disco è stato masterizzato a Nashville. Sì. E vuol dire, peso. Sì, vuol dire, è stata una ottima idea di Andrea Lepori, dello studio. E lui sa, mi conosce molto bene da anni, noi abbiamo registrato lì. Ho registrato lì con i Lowlands i dischi che ho fatto, sì, con loro, certo. Ho registrato lì anche con tante altre band. Lui sa perfettamente cosa voglio io quando bisogna microfonare il violino, e io sono veramente pretenziosa, perché il violino si fa proprio presto a farlo sembrare uno strumento sgradevole, perché ha un suono difficile, no? Va da delle note basse, piuttosto basse, ma anche un po' grattose, no? Che è anche il suo bello, a note acutissime, e quindi è un passo veramente farlo sembrare spiacevole. E invece Andrea sa perfettamente come posizionare i microfoni. Andrea credo che sia, non solo a detta mia ma a detta di altri musicisti anche stranieri che sono venuti in studio, uno dei più bravi ingegneri del suono da ripresa, soprattutto di strumenti acustici. Quindi io sono stata fortunata, lui sa cosa voglio, e allora già nella ripresa abbiamo lavorato a questo tipo di ripresa, con un microfono davanti, alcuni microfoni che prendevano la stanza. Poi quando è stata ora di masterizzarlo, Andrea sapeva che io volevo un suono crudo, dove si sentissero tutte le varie sporcature che lo strumento acustico, il violino, ma anche la chitarra, voglio dire, certo, ogni strumento che è fatto di legno. Poi nel violino c'è anche la componente dello sfregamento, no? Perché il suono viene prodotto dallo sfregamento dei crini sulla corda, quindi si fa proprio presto a creare un po' di imprecisione del suono, che secondo me è assolutamente il suo bello, no? Le cose più interessanti sono sempre i difetti, no? In qualcosa o in qualcuno, quindi... E Andrea mi ha detto: guarda, c'è questo studio a Nashville che fa le cose sporche come piacciono a te. Bellissimo. Detto, allora proviamo. Non abbiamo fatto neanche una correzione, è arrivato a casa, l'ho ascoltato di nuovo, e io che sono sempre indecisa su tutto ho detto ok, va bene. Ti è piaciuto subito, insomma. subito. Sì. A me sono piaciute tanto invece le parole che ti ha detto la tua insegnante Elisabetta Garetti, che dice: Chiara è stata un'allieva importante per me, ho cercato di trasmettere i mezzi tecnici per esprimere la sua immensa musicalità, il suo spirito e la sua creatività, e lei ha trasmesso tutto questo a me donandomi soddisfazioni bellissime. Credo sia una grande soddisfazione proprio sentirsi e vedere leggere, cioè, queste sì, parole per te, che sei stata una sua allieva, insomma. La è una soddisfazione incredibile, perché io sono... Anche di questo parlavamo con Alberto in questo viaggio che abbiamo fatto ad Alessandria. Io sono molto molto legata alla mia insegnante, che è una donna eccezionale, una donna giovane, quindi con lei c'è un rapporto che negli anni è diventato una profondissima amicizia. Io e lei siamo anche molto simili, quindi ci comprendiamo, ma al punto da un po' da telepatia, non ci credo tanto a queste cose, però delle volte lei mi chiama e mi dice: oh, ma stai bene? Perché? Okay. Guarda, ti volevo chiamare perché c'è un pensiero, vedi? E lei apprezza molto quello che faccio. Io sono contenta perché non so quanto sia sano, però secondo me un buon allievo deve voler compiacere la propria maestra, e per me è così, insomma. Vorrei renderla felice del tempo che ha speso per me. Beh, insomma, se i risultati sono questi, penso che siano ampiamente felice. Poi se ti scrive così, insomma, quindi sì, meno male. Magari ci sta ascoltando, anche la salutiamo. Speriamo, sì, salutiamola. Sicuramente se non ci sta ascoltando adesso, ascolterà poi la trasmissione. C'è nel podcast. Esattamente. Certo. Poi una cosa bella, la spiegazione perfetta che ha dato dell'humus del violino, del suono del violino, come hai dato qualche secondo fa. Hai spiegato perfettamente che cosa vuoi dal violino. Quindi, chiarissimo, secondo me. Sì. Hai capito benissimo. Ok. 21 e 50, quasi 22, siamo quasi arrivati alle 22. Cosa facciamo? Facciamo un pezzo da disco adesso, cosa dici? Che decidono loro. Sì, facciamo un pezzo da disco, dai. Che cosa avete scelto? Allora, abbiamo scelto Seven Hammond Close. Seven, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, lo sentiamo, ascoltare. Sì, benissimo. Ok. Thank you. Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo ancora qui, siamo in diretta con Agostino, con Maurizio, ma con soprattutto Chiara Giacobbe, con il suo chitarrista, che non mi sfugge il nome, come sempre. Alberto Graziani. Graziani. È bello che c'è un cognome che io adoro tantissimo, tra l'altro, gli ho chiesto anche prima, speravo, ma non è. Va bene. Ma comunque, insomma, felicissimi di avervi qui, insomma, questa serata. Vi ricordo, ancora mezz'oretta in loro compagnia con questa musica straordinaria, il violino di Chiara. Ma vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre gli sms 346 23 20 0 33. Spieghiamo il pezzo allora, Chiara, questo pezzo. Va bene. Il titolo innanzitutto. Sì, il titolo Seven and Mount Close non è il primo titolo che ho dato a questo brano. Prima era Tappaba. Perché va Tappaba, da, no? Poi vabbè, ovviamente per ricordarsi qual era. Poi si chiamava Walking in London. Quando poi io ho fatto ascoltare questo brano a Jerry Ranson, che è il mio agente in Inghilterra, lui è piaciuto molto, e mi ha detto, sì, guarda, il titolo è bello, però sai... è un po' generico, secondo me nella tua testa c'è qualcosa che tu pensi in specifico quando pensi a camminare. Io amo molto l'Inghilterra, amo molto Londra, e nella fattispecie mi è venuto un posto che non è a Londra, ma è in un paese fuori Londra, ed è un indirizzo. Sì, è un indirizzo quello là. È l'indirizzo della casa di una signora che io amo molto, che ci ha ospitati, me e i Lowlands, quando noi siamo stati in tour in Inghilterra. Ah, benissimo. E poi siamo diventati anche amici, e lei mi scrive spesso, io le scrivo. E quando io ho voluto intitolare la canzone così, perché questa è una delle poche melodie totalmente felici. Scritta al pianoforte all'inizio, sì. L'armonia in qualche secondo al pianoforte, scritta con molta sofferenza, qualche ora al pianoforte, era un pianoforte, ma era una tastiera orrenda di notte a casa dei miei genitori, con i miei che dormivano di là, poverini. Sì, perdendomi, anche perdendo le parti, vabbè, poi alla fine è arrivata. E quando io ho voluto dare questo titolo, ho scritto a Angie, questa signora, ho detto, guarda, a me piacerebbe, però chiedo il tuo permesso, perché certo, è l'indirizzo di casa tua, ho capito che è un indirizzo, un numero, però... E lei è stata molto contenta, e allora l'abbiamo chiamata così, e secondo me è il titolo azzeccato, il mio agente aveva ragione su questa scelta. In particolare su questo brano io dovrei fare una cosa che non amo fare di solito, io non parlo mai della mia famiglia quando sono in radio, che perché preferisco di no, però devo spendere una parola di ringraziamento a mio fratello, che è un chitarrista, e che ho veramente schiavizzato nei giorni in cui tiravo giù queste canzoni, perché quando le mie capacità chitarristiche finivano, e molto presto finivano, sì, tra l'altro, dopo 4 settimane. Ti davo una mano lui. Allora io telefonavo e dicevo, senti, guarda, abbi pazienza, mi devi aiutare, devi venire qua. Allora lui veniva lì. Adesso, purtroppo, io devo fargli le fotocopie. Siccome lui è uno stimato geometra, è uno studio molto importante, mi usa per tenere il prisma nelle misurazioni e per fare fotocopie, però va bene. C'è una compensazione. Certo, è così. Chiara, i tuoi prossimi concerti? Sì. Perché ne so che ne hai uno importante domani sera. Domani sera siamo al Maltese a... io spero di non sbagliare l'accento, Mardimago, ho sbagliato subito, ovviamente. Non preoccupare. Siamo lì, siamo molto contenti. E poi avremo un'altra data a gennaio dalle nostre parti. Poi a febbraio un po' più denso, abbiamo Torino, abbiamo Casale Monferrato, in un circolo molto carino che fa tanta buona musica, si chiama Circolo Pantagruel. E poi avremo, insomma, un po' di date ancora a febbraio, qualcosa a marzo. Insomma, il tour invernale... è lungo. Prosegue, sì. Non è mai abbastanza lungo un tour, però... Quando sei partita, la prima data? Stasera. Tour invernale parte stasera. Quello estivo è partito con l'Inghilterra, invece. L'Inghilterra è sempre, hai detto, che è proprio un tuo DNA. Un po' lontano, ma è sempre il tuo DNA. Magari. Ma no, per carità, io sono italiana, sono contenta. Al di là che sei suonato parecchie volte con la band in cui partecipavi. Sì. Però anche adesso, cioè, hai fatto altre partecipazioni al di là di Lowlands? Sì, è nato tutto così. Io ho iniziato a suonare qualche volta in Inghilterra con i Lowlands e la cosa mi è piaciuta molto. Ho iniziato a suonare, in particolare io amo molto Londra, è un posto che trovo magico perché è pieno di spunti, molto, molto libero, però anche molto affettuoso in qualche modo, non lo so. A parte il mangiare che forse è un po'... A me piace. Ti piace? Prendo un sacco di chili quando vado a Londra. Appunto perché non mangi tanto bene, insomma, non c'è la cucina italiana. E perché ti nutri di barrette. Crunchy. Sì, di barrette e di bacon a tutte le ore, burro salato. Ah, fantastico. Sì, ho cominciato con loro ad andare un po' a suonare e poi ho avuto la fortuna di incontrare Jerry Ranson, la gente che si occupa anche dei Lowlands, sì, certo, in Inghilterra. E quando io ho cominciato la mia strada da sola, Jerry è rimasto interessato al mio progetto, mi ha detto: guarda, se a te fa piacere venire qualche volta da sola o con la tua band o in duo, io sarei molto contento di trovarti delle date, di farti suonare. E io, che pur odiando follemente l'aereo, ah, sì? Infatti sono già andata due volte in macchina in Inghilterra. Ah, in Inghilterra in macchina sei andata? Sì, bellissimo. Però vabbè, bisogna andare anche in aereo e allora per Londra dico sì anche all'aereo e ci sono stata. Anche tanti anni fa sono andati le Orme all'isola di Wight in macchina. Che bello. All'isola di Wight, sì, perché sono andati all'isola di Wight con la Renault rossa, R5. Le Orme, sono andato a vedere l'isola di Wight, il concerto dell'isola di Wight, tanti anni fa, molti anni fa. Ma è quindi bello viaggiare in macchina così a lungo con la propria band, divertente. Erano tempi eroici, però andare in macchina a Londra per vedere il concerto dell'isola di Wight. Sì, ma andarci a suonare è meglio. Andarci però a suonare è meglio. Sì, ma loro erano solo ospiti, cioè sono solo, andavano solo a vedere, non potevano suonare all'epoca. Certo. C'erano altri gruppi che suonavano. Chiaro. Beh, visto che si parla di altri gruppi, sì. Chiara, ti facciamo una domanda che poi la facciamo sempre, comunque in ogni live la facciamo a tutti, perché è giusto, insomma, scoprire un po' anche gli altri aspetti dell'artista che ci viene a trovare. Cosa ascolti quando tu sei, diciamo, isolata dalla tua musica, cioè quando, o meglio, noi la domanda la facciamo così: se vai in un'isola deserta, cosa ti porti di dischi? Facciamo tre, dai. Io posso parlare di autori più che di dischi, perché parliamo di autori. Preferisco, un po' perché non ho memoria, un po' perché io purtroppo sono di un'epoca in cui, sì, i dischi li ho e ne ho, per carità, però anche un sacco di MP3, lo so che è brutto da dire, però anche la verità, e quindi a volte non sempre si colloca la canzone nel disco, anche, cioè, me ne vergogno, però dico la verità, è così. Vabbè, io porterei assolutamente un sacco di cose di Dylan, che per me è un amore incredibile. Primo, secondo, terzo, quinto, periodo, sesto. Ma no, ma a me piace tutto. Cioè, se lui tutto dice una parolaccia, a me piace. Cioè, mi piace tutto, tuttissimo. Ti piace anche Tempest, l'ultimo che mi piace molto, mi piace, l'ho consumato, lo trovo bellissimo. Ma io però non faccio testo, cioè a me piace veramente tutto. Perfetto. Ho ascoltato Dylan l'ultima volta quest'inverno a Milano, è stato un concerto pazzesco. Oh, che bella canzone. Beh, bellissimo. Poi porterei Johnny Cash. Perfetto. Che è al pari di Dylan un ascolto. L'uomo in nero. Sì, meraviglioso. Lui oltretutto è una persona con una vita molto tormentata, a tratti forse giudicabile in maniera negativa, però non lo so, io non voglio giudicarlo, mi fermo a dire che secondo me è un musicista e basta. È stata una... con la M maiuscola, sì, molto maiuscola, se si può dire così. Anche pagato. Esatto, ha pagato molto, sì. E io lo adoro assolutamente. Poi, oddio, non lo so, c'è qualcosa di Grappelli che io amo particolarmente, però ce ne sarebbero tanti altri. Ne hai solo tre. Siamo crudeli. Siamo così, dai, questi tre qua. No, anche Alberto adesso, sì. Chiaramente. Beh, i miei riferimenti sono, come dire, i caposaldi della letteratura del jazz. È inutile citare Miles Davis e John Coltrane prima di tutto. Però, rimanendo in tema, amo tantissimo anche io Bob Dylan e anche Bob Marley. Ecco, non è valido copiare. No, invece è così, ecco. Diciamo che sono due autori. Bob Dylan e l'altro non ho capito. Bob Marley. Ah, Bob Marley, scusa. E mi interessa la grana della voce che hanno, proprio come cantanti, mi piacciono tantissimo. Non so perché, ecco. Cioè... Il rock e il folk e il reggae possono assolutamente andare d'accordo quando ci sono due voci di quel tipo, di quello stampo, quella colorazione. Forse sono due autori che trascendono i generi, assolutamente, molto significativi per un sacco di motivi, però a me interessano proprio per la voce, cioè mi piace tantissimo la voce di questi due. Sì, se non ci fosse stato Bob Marley, il reggae non sarebbe stato sdoganato, nessuno lo ha sdoganato in senso mondiale. Che sì, ricordo il famoso concerto che ha fatto a San Siro. Sì. Io non c'ero, chiaramente, però chi c'è stato ce lo ricorderà per tutta la vita, questo è chiaro. Sì. abbiamo grazie ho reso omaggio anche a Bob Marley. Allora, abbiamo ancora 15 di minuti. Voi quanti pezzi avete ancora a vostra disposizione? Uno, due? Un paio. Possiamo farne uno? Possiamo farne anche tre. Arriviamo a tre. Dipende vediamo. Da loro. Ci eravamo fatti la scaletta, adesso ci sconvolge tutto. La scaletta qui non, c'è poco qui da non fare. Esiste non esiste la scaletta. È solo un modo per scrivere i pezzi e poi viene cambiata. Vabbè, vedremo. Vedremo. <beh. ride> Però magari adesso, se per voi va bene, sì. Potremmo fare un brano di Dylan. Ah, certo. Cosa? Noi nella nostra set list abbiamo un brano che io amo molto di Dylan, che è Tomorrow is a Long Time. È un brano che io adoro perché dice delle cose molto forti e molto profonde con una delicata energia, nel senso che la versione, vabbè, poi noi abbiamo la nostra versione, con sempre con massimo rispetto e reverenza. Da che album è? Dai. Sai che non me lo ricordo, da che album viene? Adesso lo cerchiamo, adesso lo cerchiamo. È un brano non così conosciuto di Dylan. Forse addirittura viene da un bootleg. Adesso non vorrei, dire, non vorrei dire una cosa che poi tutti adesso mi lo odiano. Adesso sì, che se in radio sbagli a dire un disco, una cosa, poi ti odio. Facciamo le cose fatte bene, adesso lo suoni, lo cantiamo e poi vediamo. E poi vediamo. Va bene, allora ci prepariamo. Io devo riaccordare. Quindi abbasso ancora un po' le microfoni. Stiamo io e te. Allora, 22:14, Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, con Chiara Giacobbe che ci sta presentando questa Ready to Go, ma ci sta deliziando anche con sentite qua adesso abbasso il volume perché sennò poi altrimenti ci apre le orecchie, ci sta deliziando anche con delle cose che sono un po', come dire, non conosciute per il suo repertorio, ma questa per esempio è una cover, poi farà anche un inedito, insomma ci sta deliziando anche non solamente con il suo disco ma anche con altre cose. Quando tu sei pronta mi fai cenno. Tu sei pronta? No. Ah, non siete ancora pronti? Maurizio, allora se vuoi che dialoghiamo un po' io e te. Dicevo 22, io abbasso sempre il microfono perché lei si sta provando. Eccoci qua. Adesso è pronta. Sei pronta? Ok. If today was not an endless highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Yes, and only if my own true love was waiting. Yes, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me, yes, I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the waters, I can't speak the sounds that show no pain, I can't hear the echo of my footsteps, or I can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting. Yes, and if I could hear his heart softly pounding, only if he was lying by me. Yes, I'd lie in my bed once again. Thank you. There's beauty in a silver singing river. There's beauty in the sunrise in the sky. But none of this, nothing else can touch the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love will sway down. Yes, and if I could hear his heart, it's softly pounding. Only if he was lying by me. Yes, I'd lie in my bed once again. Yes, and only if my own true love was waiting. Yes, and if I could hear his heart softly pounding. Only if he was lying by me. Yes, I'd lie in my bed once again. Yes, I'd lie in my bed once again. Sì, adesso tu, Agostino, hai cercato, adesso ci dici da che album, da che bootleg avevo scritto. Se mi paghi te lo dico. Vedi te. Allora, questa è una canzone del 1963. Allora, diciamo che la prima edizione fu pubblicata nel 1971 nell'album Bob Dylan Greatest Hits volume 2. Ecco, vedi. Poi è stato preso anche nella compilation tripla, una compilation rarissima, insomma, che si chiama Capolavori, insomma, va bene. Però la canzone fu ufficialmente rilasciata dal vivo nel 1963, il 12 aprile, dicono qui, ad un concerto al New York Town Hall. Quindi Chiara ha scelto uno dei pezzi più semplici di Dylan dal punto di vista conoscitivo. Poi, e poi aggiungo solo un'ultima cosa, che è stata rifatta anche da Elvis Presley. Ah, ecco, vedi. In ogni caso, abbiamo gusto, sì, io Elvis. Cari ascoltatori, dovete scusare, ma di là circa 30 album, quindi non è uno solo. E soprattutto quelli un po' particolari. Ma il pezzo era molto bello, francamente. Sì. Come l'hai sentito questo pezzo? Il pezzo, come tanti altri brani di Dylan, l'ha portato alla mia conoscenza Edward. Quando suonavo con quando i Lowlands con loro, sì. In particolare è successo che Paolo Vites, sì, che tu hai citato, certo, prima, che è il giornalista, famoso giornalista, che ama particolarmente questo genere, che è una persona, un dylaniano convinto al 100%, è saputo su un Dylan. Uomo di una cultura incredibile, che è anche in grado di divulgarla in una maniera estremamente piacevole, certo. E poi è una persona che io stimo molto e sono molto fortunata a ricevere anche il suo appoggio, certo. Insomma, a lui piace quello che faccio e io sono onorata e poco, insomma, sono molto contenta. Quando è uscito uno degli ultimi libri di Paolo, adesso non ho memoria per nulla, io sono per le note, però abbiamo avuto l'onore di essere chiamati da Paolo, io con la parte acustica dei Lowlands, a suonare alla presentazione a Milano di questo libro. E allora in quell'occasione abbiamo suonato qualche brano di Dylan, abbiamo suonato Don't Think Twice, sì, che amo moltissimo, abbiamo suonato questo, abbiamo suonato Signor, che è un altro brano, sì, non conosciutissimo di Dylan. A me piace tutto Dylan, come ti ho detto prima, però questa canzone mi è rimasta particolarmente impressa. E poi quando ho provato a suonicchiarmela, a canticchiarmela, è rimasta dentro. Ma sì, mi è rimasta dentro, era nelle mie corde, no? Andava bene per me e mi piaceva molto. Allora... E si è visto stasera, si è sentito che era nelle tue corde, anche quelle di Alberto, chiaramente, però era anche nelle tue corde. Sì, a me piace molto come Alberto suona, per fare dei complimenti sempre. No, però è la verità, che devo fare. Cioè, se vuoi, dico cose false, lo suona molto negative e false. Molto, no? Libero lo suona praticamente, senza schemi ulteriori. Cioè, esatto. Lo suona come praticamente lo sente immediatamente. Esatto, e questa è la cosa più bella di Alberto. Sì? Un po' come viene, diciamo. No, come lo sente. Ma lui suona tutte queste cose come le sente. E a me piace. Quando io volevo un chitarrista che avesse la pazienza di seguirmi nei miei live, cercavo qualcuno che non venisse esattamente dal folk o dal roots o dall'americana. Proprio perché volevo... andare oltre, no? Cioè che qualcuno che avesse una intelligenza e una non lo so, una scintilla, no? Che mettesse giù del suo, associato a una capacità tecnica che lo supportasse. E poi Alberto era anche carino, cioè andava tutto bene. forse sarebbe il caso di citare la persona che ci ha messo in contatto. Sì, dire. Decisamente. Citalo tu. Va bene, salutiamo allora il mitico Paolino Canevari, che è un chitarrista fondatore dei Mandolin Brothers e nostro grande amico comune. Sì. Sì, bisogna proprio ringraziarlo, perché Paolo è un ottimo musicista, un musicista appassionato, bravissimo, e un mio caro amico, noi ci comprendiamo molto. E quando io cercavo un chitarrista, Paolo lo sapeva, no? Gliel'ho detto, e quello mi ha detto: ma ce l'ho io il chitarrista per te. Una sera andavamo a suonare al Nidaba, che è un locale di Milano molto conosciuto, e mi ha detto: sì, guarda, ti do il numero, domani lo chiami. E ho detto: vabbè, se Paolo dice che va bene, vedrai che va bene. E infatti. Maurizio, so che te lo ami, c'è anche una versione di questa canzone anche da, cantata da Nick Drake. Ah, vero. Vedi, abbiamo scoperto. È vero. L'ho scoperto per caso. Hai ragione. Non mi ricordavo, c'è anche su YouTube, credo, questa sì, credo di sì. Averla scovata lì qualche tempo fa. Va bene, mancano 6 minuti circa. Se vuoi, in velocità possiamo fare 2 canzoni. Io ne hai una sola. Io ne farei una, perché vorrei spendere qualche parola su questa canzone. Magari la suoniamo, perché è la title track di questo disco. Allora, facciamo così. Dei pezzi da disco devi farti sentire tutti quelli che volevo farti certo. sentire. Certo. E allora finiamo. Finiamo così. Allora, e volevo tirare. Io volevo tirare. Vabbè, no, adesso stiamo qui. Chiudiamo poi con la canzone. Ricordiamo magari, Chiara, i tuoi dati, nel senso, per chi volesse contattarti, per chi volesse acquistare il disco, dove si trova, sì, eccetera eccetera. Allora, io ho un sito che non seguo moltissimo, vabbè, comunque poi lo seguirò, prometto, però lì c'è un link dove voi potete, allora il sito è www.elettrichiara.com, altrimenti ho anche una pagina Facebook, Chiara Giacobbe, dove voi potete trovare tutti i vari link. Sul sito c'è un link per acquistare il disco su iTunes o su Amazon e su anche altri posti, altrimenti il disco lo potete comprare ai miei concerti o scrivendo alla mail del sito e vi verrà spedito. Certo, spedito. Prossimi concerti, ricordiamoli. I prossimi concerti ricordiamo di nuovo. Domani siamo a Mago. sì, al Maltese. Poi torneremo in Piemonte, faremo qualche data a Torino, ad Alessandria, a Casale Monferrato. Poi abbiamo qualcosa in ballo un po' più avanti nella stagione, anche fuori zona. Vediamo, ci potrebbe essere anche un Inghilterra nell'area. Una cosa che non ti ho chiesto: la formazione di concerti ci sarà Alberto o più allargata? Per questi concerti fino a marzo il tour è assolutamente acustico, quindi saremo io e Alberto. Però noi abbiamo in cantiere un po' di lavori anche un po' meno acustici. Un po' rocchettari. Magari torneremo a parlarvene. Un po' rocchettari, insomma. Ma sì, un po' folchettari. Un po' folchettari, tal folk e rock. Dai. Sì, e di nascosto stai progettando già un altro disco? Ti può dire qualcosa? Ma di nascosto stiamo lavorando a brani come No Place to Hide, che vi ho fatto sentire prima. Ce ne sono un altro paio lì che bollono pronti in pentola. Vediamo, adesso tanto bisogna fare sui soldi per fare un altro disco. Poi valuteremo, certo. Non lo so, vediamo. Stiamo progettando una rapina. Esatto, non dirlo però. Sì, sì. Va bene, parliamo allora dell'ultima canzone. Sì. Allora, l'ultima canzone è Ready to Go ed è la title track di questo disco, una canzone che io ho scritto partendo dalla chitarra e poi canticchiandoci sopra, poi è venuto fuori questo testo, insomma, se prima voi avrete notato e tutti avranno notato che questo è un disco totalmente strumentale, sì, con un solo brano esattamente cantato. No? Una canzone, certo, nella forma canzone che noi tutti conosciamo. Ed è strano, mi rendo conto, ogni volta che ho l'occasione, la fortuna di essere intervistata, mi viene chiesto: ma come mai hai fatto? Come mai? È andata che abbiamo voluto fare gli splendidi, abbiamo voluto fare il contrario di quello che fanno gli altri. No? Il disco era nato strumentale. Poi è uscita questa canzone. A me è piaciuta e ad Andrea dello studio è piaciuta molto. Abbiamo deciso di metterla dentro, con la promessa di avere comunque un live in cui ci fosse stata una integrazione tra brani in forma canzone e brani strumentali. E poi alla fine Ready to Go era il titolo più indicato per determinare un album, per visualizzare un album che aveva come tema il viaggio. Certo, certo. Era una partenza, una partenza per tante cose. È un brano in cui io aspetto qualcosa che non arriva, però sono già pronta a partire. Insomma, un brano di cambiamento, sicuramente. Benissimo. Benissimo. Di cambiamento. Bene, Maurizio, abbiamo terminato. Sì, esattamente, abbiamo finito questa bella cavalcata. Un'ora e mezza di musica, con la mia maiuscola. Abbiamo avuto anche il violino questa sera, che è una cosa rarissima, avere un disco impostato soprattutto. È suonato dal vivo, il violino. Esatto, quello è importante. Emozioni sempre tantissime qui a Blu Radio Veneto. Chiara, noi ti ringraziamo allora di aver aderito alla nostra richiesta di essere qui questa sera. Io ringrazio voi tantissimo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie anche a Graziani. Graziani Alberto. Sì, presente Graziani Alberto. Va bene, io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con un po' di musica reggae, se ti interessa. Giovedì prossimo vi sintonizzerò sicuramente, ecco, dalle 21 alle 22:30 con Giulio Maria Garbellotto, che è, diciamo, una band, il Beta Project, che fa soprattutto musica reggae, un po' anche ska, ma insomma comunque viene da Venezia, da Venezia, quindi c'è l'influenza dei Pittura Fresca e quant'altro. Beh, certo, c'è una tradizione, c'è direi. Una tradizione, insomma. E quindi l'appuntamento con il sottoscritto è per giovedì, mentre tu, Maurizio? Sì, avremo subito, partiamo martedì, avremo con Flavio Leo Miglioranza, che è un chitarrista, un musicista, un cantautore di Treviso praticamente. Benissimo, quindi un buon proseguimento all'ascolto dei programmi che continuano con Marco Borgato, che ci è arrivato in questo momento, e quindi sentirete un po' della sua musica rock. Prima però ci ascoltiamo l'ultima canzone che Chiara e Alessandro ci regalano questa sera. Un grazie ancora di cuore, e Chiara, noi ti aspettiamo per il prossimo disco. Sicuramente, saremo qua, sarete i primi. Guarda, che sei tutto registrato. Sì, ma io prometto, poi qua è bellissimo, ci piace, vogliamo tornare. Fantastico, ecco. Grazie. Siamo grazie stati ancora. Davvero bene, grazie. Grazie a voi. Prego. Woke up this morning in someone else's dream, made me kinda angry, made me wanna scream. I packed my bags, I closed the door. I won't be coming back here no more. I was standing alone by the side of the road, waiting for you to come and carry this load, waiting here for something new to begin. But now I'm ready to go away. Sleeping and sliding on a summer day, got nothing to do, nothing to say. The scars you see on my skin tell you the story of the places I've been. I am standing alone on the edge of the world, waiting for you to come and carry me home, waiting here for what would like to begin. But now I'm ready to go away. Walking around and the sun comes down, shadows and ghosts have come to town. I'm watching everybody falling down, one by one they hit the ground. We were standing alone at the end of the road, waiting to see the story unfold, waiting here and not feeling too old. But now we're gonna go, we're gonna go away. But now we're gonna go away. But now we're gonna go away. But now we're gonna go away. Today.